addormentate nella notte silenziosa, per le spiazze popolate, fino all'alba sonnacchiosa. Porto a spasso tanta gente dai quartier della città, la cocotte, il malvivente, la grandame ed il gaga. E con la pioggia, con la luna, e vo soggiogo al mio tassì, c'è una notte di fortuna, e sarò ricco al par del me. Ma se notte d'emigrania, è un miracolo della che in pompa magna e mi sussurra il grand hotel, son le coppie innamorate che se bacian trasognate, che se tengono abbracciate sui cuscini del cassì. E con la pioggia, con la luna, con l'occhio lo chauffeur, coppia fissa di fortuna, la compagna d'ora ad ora, consolando mia carattà. Magna, e mi sussurra il grand hotel, son le coppie innamorate che se bacian trasognate, che si tengono abbracciate e sui cuscini del cassì. Con la pioggia, con la luna, con l'occhio lo chauffeur, coppia fissa di fortuna, la compagna d'ora ad ora, consola.